Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico? Ma se restiamo insieme sembra paradiso anche ho sparito. Brucio il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare. Uscire dall'acqua coperti di sale. Mare blu profondo, suona bello il vento. Intorno solo gente che balla, che balla, che balla. Intorno solo gente che balla, che balla, che balla. Balla, sì, sì. Il che mamma balla, mia. Che balla, che balla è forte, devo, è forte. Allora, da DJ devo dire che il che balla spacca in pista, eh. Sì, è il momento, esatto, è il momento, momento più, proprio più coinvolgente di tutti, di cappella. Certo. Io invece vorrei porre l'attenzione su cosa importa se sogniamo il Puerto Rico quando siamo insieme sembra il paradiso anche Ostia Lido, che è, secondo me, è, secondo me li supera riassunto, tutte. È il riassunto di una magia. Ma che me frega a me da fare il biglietto, fare, esatto, il passaporto? Io sto con te che esatto, a me basta anche però l'estate. Per quello che dicevamo anche fuori onda, cioè il talento di questo ragazzo, cioè di esprimere un concetto fortissimo, anche, passami il termine e perdonamelo, amore, perché questo secondo me è un modo di dichiarare il proprio amore originalissimo ma molto forte, sì, in due versi, detto in maniera particolarissima ma però efficace. A me piace davanti, è smaliziato di bestia, J-Ax, a me piace veramente tanto, sempre in collegamento con questo radio convento. Ma tu hai visto ancora il cazzetto che faceva J-Ax a Fedez? Sì, è voglia, ma chissà che sicuramente, secondo me si riuniranno prima o poi, appena Fedez tornerà dal suo biennio sabbatico, che si è preso adesso 2 anni di pausa, e poi tornerà in pompa magna, e secondo me un giretto dallo zio Ax lo farà. Ma l'hai visto che ha lasciato fuori la Ferragni? Dove? Dalla casa. Ah sì? No, non ho visto, non si li seguo. Si è scusato dicendo che c'era la maniglia che non funzionava. No, non li seguo molto su Instagram, ma so che ma è rimasto io, a casa però, per... Me, non si può fare a meno perché sì, te li metto. Su 200 miliardi di storie che fa la Ferragni praticamente... Te le mettono ogni tanto. A proposito della Ferragni, torniamo un attimino anche sull'argomento di prima. Sì. La sua biografia, il suo film documentario, il più visto del 2019. Ma dai! Al cinema. Ha preso una marea di critiche al Festival del Cinema di Venezia. Sì. Mentre invece è il più visto da quest'anno nei cinema italiani. Ma sai che stanno spopolando su Joker? Sono andato ieri sera. Ragazzi, che film. Che film, che attore. Ad Astra non tanto, devo essere sincero, non è che è proprio un filmone della Madonna. No, Joker, ragazzi, film esagerato. In America. Molto. Sta succedendo... Un casino. Un casino terribile. Spieghiamo un attimo, stanno vietando l'ingresso alle persone mascherate, truccate o con armi anche giocattolo. Perché sembra, anzi, ti dirò di più, ho letto che hanno chiesto le forze dell'ordine. Sì. Di base a tutti i cinema, certo, hanno chiesto il piantonamento delle forze dell'ordine. Allora, va spiegato ovviamente che il nostro approccio è diverso dagli americani quando c'è un'uscita di un gran film. Cioè noi europei andiamo a guardare il film perché ne abbiamo sentito parlare, perché certo, insomma gli spot ci stanno spaccando. Sì, c'è intanto Gabri qui che mi deve gesticolare. Sì, gesticolo. Ha ragione, perché giustamente faccio su un po' di pentole. No, dico, noi ci andiamo perché è un po' trascinato dal mondo dello, certo, sport, no? Però loro invece sentito. Assolutamente. Cioè, loro vanno mascherati, vanno... No, e ragazzi, veramente vi dico, visto ieri sera, quindi fresco, film bello, assolutamente, sì? Bello, okay. Nulla da dire, ma c'è un Joaquin Phoenix che è un qualcosa... Cioè, una prova d'attore incredibile, secondo me è arrivato al limite dell'anoressia, al limite della follia personale. Sì, ma è veramente quasi indescrivibile. Non riesci a. È quasi una monografia, non è un film, è una monografia su di lui. Okay. Sì, è una monografia su di lui, non ci sono altri grossi protagonisti, non ci sono grandi partecipanti, è lui che tiene banco da solo. Cioè, ogni movimento, ogni respiro, ogni espressione del viso è studiata e fenomenale. Assolutamente, proprio si è incarnato nella parte. Non so come si sia preparato, non so se conosci la leggenda di Johnny Depp nei Pirati dei Caraibi. Anche lui. Che dicono che si sia isolato completamente, sì, in una stanza d'albergo per 2 o 3 mesi, sì, per preparare il personaggio. Mi sembra Pappalardo. Senza vedere nessuno, facendosi portare addirittura il cibo, pranzo e cena, in camera, non è mai uscito, e si è preparato guardando tutti i film che avevano degli schizzati tra virgolette all'interno del cast, in senso buono, ad esempio Arancia Meccanica e tutto quel mondo lì. Tu immagina 2-3 mesi a vedere film come Arancia Meccanica chiuso nella stessa stanza, come ti possono ridurre e conciare. Lui è uscito da quella stanza e ha impersonato il personaggio dei Pirati dei Caraibi e ha fatto ovviamente un successone. Quindi complimenti al Joker di Phoenix. Infatti siamo un po' distratti da tante cose, dei nostri amici che ci stanno scrivendo in Instagram. Gli amici di Badabung ci stanno facendo tanto le domande. Allora Alessandro, rispondiamo live in diretta. Allora, ma mi chiedevo come mai sei andato a finire a Brescia, una cosa simile, e come mai ci conosci da Sicilia Cabaret. Alessandro, sono di Palermo io, ma sono trasferito. È un finto bresciano, Angioletti. È un finto bresciano, di Palermo, trapiantato. Però, insomma, voglio bene, quindi alla fine, insomma, le radici sono le radici. Mi fai un acuto, Ale? Mi fai un acuto in diretta? Adesso poi lo aspettiamo. Intanto, poi sentivamo, leggevamo prima dei ragazzi che sono spesso in provincia di Brescia per anche parentele, quindi li aspettiamo volentieri. Li aspettiamo molto volentieri nella nostra radio. Più che volentieri. Allora, noi lanciamo una canzone, poi andremo io vado in pista. Con i saluti, perché al momento, a brevissimo, cominceremo con la nostra festa, il nostro sabato Dinner and Dance, grazie al nostro DJ Alex Angioletti, e ci andiamo ad ascoltare un'altra che ne sa di musica, la grandissima Dua Lipa. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Too late now. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. Boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. Dua Lipa, EDGAF, l'abbiamo sentita su Risto Radio Convento, come sempre in diretta in collegamento con la radio del convento di Lonato del Garda. EDGAF, che è l'acronimo per ovviamente dire I don't give a fuck. Abbiamo, visto che il nostro claim è per raccontarsi e per raccontare, qui un ragazzo che vuole raccontare qualcosa, il motivo della sua presenza qui. Allora, ciao, come ti chiami? Siamo Silvio. Vuoi fare una dedica? Silvio, dove vieni? Da Montichiari. Giovanissimo, quanti anni hai? 19. Volevo chiederti, dopo facciamo la dedica, visto che abbiamo appena passato a I don't give a fuck di Dua Lipa, bravissimo, che l'abbiamo vista come titolo acronimo. Non so se tu eri già, come dire, pratico del telefono a quell'epoca. Tra voi giovani si scrive ancora con tutte le abbreviazioni, il perché con la X, la K, quelle cose lì, o sei un po' perso? Tu come, che rapporto? Io lo facevo ancora, vedi? Un giovanotto ancora, diciamo, giovanotto, sono ancora. Però adesso non tanto. Sei un po' perso, perché prima era tutto un XKE, TVB, TVTB, TVTBBBB. Non voglio sta cosa. Non vogliono? E cosa vogliono? Dici un po', spiegaci cosa vogliono le giovanissime di oggi. In questi giorni vogliono un po' ragazzi più, non troppo alla moda, ma abbastanza intelligenti e classici, diciamo. Ok, quindi vogliono un ragazzo che sia altrettanto. Sì. Un po' più adulto di quello che è anagraficamente. Diciamo di sì. E funziona? Dipende da che tipo trovi. No, ok, ok. Però mi confermi che si è un po' perso questo modo di abbreviare tutto. Sì, si è perso, si è perso. Che prima c'era parecchio e invece si è perso. Bene, bene. Mi fa piacere avere anche un punto, un'analisi a un giovanissimo. Dicevamo prima, è una festa. Questa sera è il motivo della tua festa. Avevi anche una dedica, un saluto da fare. Vai, dici sì, un po'. Sì, mio amico Andrea Palazzi, da con me in classe l'anno scorso. Ormai non c'è più, però... Cioè, non c'è più in classe, cioè, nel senso fisicamente, sì, è ancora fisicamente, qui, sì, ancora non qui, è, che... è qua con noi. Esatto, momento. Non c'è più, era un po' fraintendibile. Diciamo che si è perso anche lui. Anche poi si è perso? Un pochino, okay. Sì. Ma cosa state festeggiando? Il suo compleanno, 18esimo. 18esimo, pensa un po', da dove viene? Da Padenghe. Padenghe, ok, quando ha compiuto gli anni precisamente? Ieri, quindi fresco fresco di 18 anni. Freschissimo. Che consigli gli hai dato tu che già hai passato queste taglie? Hai dato qualche suggerimento? Finire la scuola a lavorare. Finire la scuola, quindi non andare all'università? Ma se ce la fa, però è uno che ce la voglia, secondo sì, me. Sì, quindi gli hai consigliato di andare a lavorare subito. Ma cosa fai tu? Studio o lavori? Io lavoro e studio. Entrambi? Già. Cioè, cosa fai? Muratore e poi la sera studio. Ma in che senso studi? Per diventare cosa? Ragioniera. Ah, ok, ma stai facendo una specie di corso privato? No, ho la quinta. Ah, ok, ma come fai? Frequenti comunque? Sì, dalle 7 alle 10. Del mattino? Di sera. Ah, una scuola serale. Già. Ah, ok. Hai preferito quindi la scelta di lavorare? Mi serve. Sì, chiaramente. Ormai. Serve a tutti, però bravo che ti stai comunque concentrando su un tuo possibile futuro. Insomma, è una vita bella tosta. Già il muratore è un lavoro di suo faticoso, sì. ed è difficile, insomma. Se in più abbastanza. Alla stanchezza della giornata ci unisci un paio d'ore di classe, un paio d'ore di studio, diventa tosta. Le 3 ore in più... Si sentono, una sì. Giornata bella lunga. A che ora inizia al mattino? Le 7, immagino. 5:30. Perfetto, 5:30, perfettissimo, quindi è ancora tosta. Dai, vedrai che sicuramente ti servirà e ti darà una mano. Vuoi dire qualcosa al tuo amico Andrea? Gli auguro una buona fortuna tutta la vita e una canzone che a lui piace e basta. Aspetta che abbiamo un estratto di una canzone che non abbiamo in rotazione, ecco, nella nostra programmazione, ma siamo riusciti a trovare, vediamo. Perfetto. Contro LSI. Volare, volare, volare, volare. Cocaina nella cookie. Si sente, questa è la roba di voi giovani. Non c'è contenuto, però c'è ritmo e groove. Noi sempre mezzogiorno. Dimmi il calice di fuoco. Sì, beh. Negro siamo roccia pura. Vanno pazzi per il colco. Di che faccio con il prodomo? Ti riduci a colla prova. Ok. Oh, l'abbiamo dedicata al tuo amico Andrea. Anche tu ascolti un po' di questo genere musicale, quindi trap, hip hop e tutto quello che ci sta intorno? Tutto, anche metal soprattutto. Metal, tipo qualche band di riferimento? Slipknot, Metallica, Iron Maiden. Nomi di tutto rispetto. non meri tutto rispetto. Già. Sai che i Metallica ci sono fermati adesso per un po'. Hai sentito? Hai letto? Ho sentito, sì. Mi dispiace anche. Vabbè, però ultimamente le ultime canzoni, il mio album, troppo commerciali. Si erano un po' spenti? Purtroppo hanno dovuto, diciamo così, fermarsi almeno momentaneamente, perché il cantante, insomma, dominio pubblico, quindi non ascoltiamo nulla, è entrato in clinica, penso, comunque sia, si sta come dire, disintossicando dalla sua dipendenza dall'alcol. Ha deciso, insomma, di intraprendere questo percorso, e va da sé che la band non ha proseguito, voluto proseguire i concerti, ma siamo certi che torneranno più forti di prima. Bene, mi piace che sei anche un po' più classico nelle, tipo la tua canzone di riferimento di Metallica? Di Metallica? Cioè, sei uno da Nothing Else Matters o Number of the Beast? Per, no, scusa, quelli sono chiaramente gli Iron Maiden. Dicevo, da Nothing Else Matters o da Master of Puppets? Cioè, più da Master of Puppets? È per forza. Di più energico, più è energico. Migliore. Bene, bene, era per capire perché Metallica sono un gruppo che fondamentalmente, sì, metal, però che ha spaziato a 360 gradi come il genere. Il problema è che verso la fine troppo commerciali. Si sono commercializzati un po'. Però i primi album, i primi due, erano i migliori secondo me. Però penso che siano stati forse gli unici a rendere veramente popolare la cultura del metal, che è rimasta di nicchia per tanti artisti. Loro sono riusciti a portarla alla portata, appunto, sì, di sì, tutti. Anche loro, però i primi erano Iron Maiden. Sì, sì, assolutamente d'accordo. Va bene, allora ti ringraziamo per essere stato con noi. Poi il nostro spazio radiofonico riapre, per cui ti aspettiamo per ancora gli auguri al tuo amico Andrea. Grazie mille, e noi continuiamo con la musica. Non è purtroppo una canzone metal, neanche trap, ma è molto molto bella. Riprende anche qui una campionatura. Vedi che c'è la postazione. Stiamo ascoltando singolo Backermat. Buon ascolto. Si chiama così, a presto. Ascoltando Ristoradio Convento.